Gonge beti, alleluia, alleluia, alleluia. Gonge beti, alleluia, alleluia, alleluia. Vive la vie. Na venta nangai balobi nazali na inu minor, kasi ngonge beti na kati ya mboko. Na moni lokola na bandi kolinga, na bandi kolinga. Alleluia. Ngonge beti, avenir nangai na moni na miso polele. 20 ans ezali mingi, vive la vie. Ponangai muka, ngonge esi ebeti, mote mande mokoti ndangai. Alleluia. Ngonge beti, alleluia, alleluia, alleluia. Tududu ngonge beti, alleluia, alleluia, alleluia.